riesce a trovare nessuno, perché tutti le rispondono: io non ci vengo per 1200 euro, 1300, 1400, 1500, perché prendo 1000 euro e resto istanato senza fare niente. Vedi, io pensavo a Raddo, andava a travagliare, cazzo. A te immagini, Gigla? Ma tu cosa? Io dove andavo? Per 500.000 lire fare aiutante pasticcere. Entravo praticamente alle 2 di notte e uscivo alle 2 di pomeriggio, quindi voglio pulire alle 3. Perché tra una cosa e l'altra dovevi pulire 500.000 lire al mese. Vogliamo parlare di aiutante panettiere che prendevo 70.000 lire alla settimana. Ma, però ragazzino, eh. Lu, io nel 91 io non posso dire che sono mai stato morto di fame, ok? Perché ho sempre lavorato da ragazzino, ma mi hanno sempre pagato. Io quando ero alla Saras, che stavo costruendo il depuratore della Saras, e da lì io ho imparato il mio mestiere, che poi mi ha portato ad andare in pensione, perché poi sono entrato a far parte del gruppo dell'ESAF, del gruppo di multinazionali come Acciona, eccetera, del gruppo Wind Power. Ma io quando ero nel 1991, ma carte alla mano, io ho ancora le buste paga conservate, non racconto balle, posso dimostrarlo a chiunque. Io nel 1991 alla Saras a San Rocco, uscivo lunedì e rientravo il venerdì perché c'avevo anche l'alloggio, prendevo 2 milioni e 7, 2 milioni e 8, anche 3 milioni al mese, capito? Ed ero un aiutante tubista, non ero niente, ero un aiutante tubista. Poi mi sono piano piano specializzato, ho imparato il mestiere e sono entrato a far parte del gruppo che sono entrato, capito? Però sto dicendo, se uno veramente ha voglia di lavorare, cazzo, i soldi li guadagna. Viva il reddito di cittadinanza! Lo so, ma purtroppo è così. C'è gente che non ha voglia di fare niente, e ha voglia, più di uno. Non so cosa dire, comunque, a me, io ripeto, se riesco a trovare qualcosa vado, volentieri, però non è, ripeto, non è che posso 15 zone di travaglio e mi vai 1000 euro gaggati e ti ingrassi il culo dai padri miei, ormai io non ci vacla. Non so se tu hai letto, c'erano questi qua che erano disponibili, questi erano, se non mi ricordo male, Baristi, adesso proprio non mi ricordo, erano 5, che loro erano disposti a fare la stagione, però vogliono essere pagati bene, altrimenti non ci andavano. Viva i sussidi! A me piace non far niente. Ghiacciati? Io anche ammalato andavo a lavorare. Se i servizi giovani mi ne avevo fatto la vagogna. Vabbè, poi ne hanno viste i tricolori anche lì in Costa Smeralda, però anche roba da schiavismo. Una persona ha visto una ragazza tornandosene in lacrime qua in patria, sono i massacranti, cioè alzata all'alba e andava a dormire, andava tipo a notte fonda, ma non erano credo ristoranti, ma roba tipo villaggi vacanze, e tutto, dal pulizia cessi a servire i tavoli, tutto, ma orari non umani, non compatibili, perché non avevi un minuto libero, riuscivi a cadere sul letto e poi dormire quelle poche ore, poi la mattina punta a capo, così per mesi. E questa è tornata in lacrime perché è crollata fisicamente e psicologicamente. Guarda che sono dei gran farabutti là in costa, capito? Quelli con i soldi se ne fregano dei dipendenti anche, quello è vero, ti danno due citti e pretendono, puoi fare di più, però i denari rimangono sempre quelli. Poi dipende, io ti ripeto, non io, ma Italia c'ha tanti amici che lavorano in costa e sono chiamati, ad esempio dove ero io, Isola Rossa, Porto, quello lì dove c'è il gruppo, Delfina, lì a Padulella e Marinetta, tutti gli anni confermavano le stesse persone, tutti gli anni, e c'era il manutentore che lavorava tutto l'anno, percepiva 1400 euro al mese, d'inverno si ballava le balle, ok, perché faceva poche manutenzioni, d'estate un po' di più, però c'aveva lavoro tutto l'anno, capito? Confermavano sempre le stesse persone. Perché erano persone di fiducia. Ecco perché confermavano quelli lì. Sì, poi sai cos'è, Natale, la persona in fiducia le paghi anche meglio, le tratti meglio, ma quando c'hai uno giovane da sfruttare, tipo una stagione, poi si romandi, per carità. Guarda che anche a Sassari, in un noto mobilificio, sono state viste cose da terzo mondo, da sfruttamento di schiavi del terzo mondo, e la chiudo qua. E già l'ho sentito anche io, quello non è giusto, perché non è giusto, però... Io anche ammalato andavo a lavorare. Beh Marco, da tutte le parti si è quanti calci in culo presi io da ragazzino lavorando, perché io ho fatto pochi passaggi, ho fatto Saras, Enichem, poi sono entrato dove sono entrato e me ne sono andato a casa tranquillo e sereno. Però molti, ma molti calci in culo, molti, tantissimi, capito? E purtroppo devi, se vuoi imparare i calci in culo devi prendere, se poi nasci imparato ben venga, però io non mi pento di niente, perché chi mi ha insegnato a lavorare e chi mi ha dato un posto di lavoro, ne sono stato sempre fiero, ho detto sempre grazie, capito? Non ho mai avuto vergogna a chiedere e ad informarmi di cose che non sapevo fare, perché oddio, sbagliare umano, però essere permalosi, essere sotto pulito non sei un cazzo e non va bene nel lavoro, capito? Devi sempre seguire le dritte di chi ne sa più di te e di chi c'è prima di te, questo è molto importante, perché poi quando ti danno un incarico, come l'hanno dato a me dopo tanti anni di esperienza, io trattavo le persone come trattavano, come hanno trattato me, cercando di insegnare le cose che avevano insegnato a me e cercando di andare tutti d'accordo, non è solo perché io sono più alto di te in grado e devo prendere a calci nel culo o parlarti male, non funziona così nel lavoro. Giusto, giustissimo, eppure accade. Non sento altro, un cagliarittano, capito? Quindi in zona nostra lavorare un cagliarittano facendola da padrone, da 2D c'era 2D, capito? Chiamandoli sottoposti, vabbè, già il cagliarittano è già un problema quello. Vabbè, adesso non entro nel corso, tanto io quello che potevo fare, il poco che potevo fare l'ho fatto, fisicamente sono messo male, io non posso fare fatiche, la situazione è tribula, posso fare cose così al computer, queste cosine che ti danno due cizi, ma non posso andare oltre. Poi per il resto, vabbè, riprendi Luca, dai che mi prendi, mangio sto gelato. Dai che riprendi lui che devo prendermi il... si chiama, no, antistamini con l'altro, vabbè, lo spray per il naso, questo facciamo una cura appena ad agosto e poi dovrò subire un intervento, non so quando, se prendete voi. Turbinati o adenoidi? Turbinati e cetonate deviato. E sto facendo una cura di cortisone. E io lo stesso c'ho tutto, c'ho le turbine al posto delle narici, capito? Però non mi voglio operare, se non è proprio obbligatorio. Vabbè, Natalino, riprendi. Ma ti credo, ma c'è un po', ma poi c'ho anche dei poli, mi ha controllato. C'ho anche quelli, sono un po' messo male, vabbè, pazienza, se vuoi fare. Piano recuperiamo, piano, passa una volta e si fanno le cose, no, claro. Ti opero io, Luca. E so che tu sei drogato, sì. Un po' quanto ce l'hai anch'io? A te a 7,50. No, troppo vero, poi da sapere. Va bene, va bene. E io, chi non ne ha di nulla, per carità. Io ho scoperto tutti gli acciacchi a 60 anni. E vabbè, pazienza, prima ero un toro. Ragazzi, io vado a prendere una faccia di partita. Se ci siete, magari dopo il fresco vi entro, lascio tutto acceso qua, ok? Vai, Natalia. Ciao ciao, anch'io me la chiudo, dai. Non ha ancora volete di ciao, buonanotte a tutti, io vabbè, lascio acceso che se non mi addormento ho appuntamento con San Video, dai, verso le 11. Ok, a più tardi. Ciao ciao. Ciao Marco, buon gelato alla faccia mia. Anche a te ti opero io, vedrai che sorriggi bene dopo. Marsiglia. Ciao Claudio, Luca e Natalino. Comunque no, Natalì, controordine. Non mi raccolto l'orario, le 9:10. Niente, gelato, perciò non c'erano stanotte. Pazienza, aspetto, faccio tutta una tirata dopo. Ciao, buona serata a tutti, ciao. Ciao, ciao. Problemi? Il cazzo! Perché così? Hola! Hola! Cazzo! Un bel altro sensazione adesso! E beh, tu, Antonio. Cazzo, mi viene del guglione. Hola. Non c'è il volume a zero, Antu. Perché? Non mi sentivi, ti ho salutato, Antu. Eravamo fino a poco fa in radio, mi ha deciso di fare, sono chiuso tutti, c'era anche Luca. Stazionari alte ciò. Oh, da poco te l'ha fatto. Antu, senti un po' se senti rumori strani. Ti lascio il bianco, la portante, cioè. Negativo. Ok, va bene. Ok, dai, ti saluto, tanto sto facendo dei collegamenti e roba elettrica, dai, elettronica. Ci sentiamo, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ci sentiamo. Questa antenna mi sa che ho chiuso da roba di giù. Ma ha preso vento che l'ha sballottata. Quello è. A proposito, sai che ho preso la Ringo mezz'onda? E la sta provando il Profeta. Così, tanto per averla come antenna d'emergenza, usi futuri. Ringo mezz'onda, però c'è tre radialini, 5,20 m è lunga. Però lo sai che rispetto al quarto d'onda non ha avuto alcun guadagno, almeno da me no, da molti no, forse solo da un CB ha avuto un po' di guadagno. Capito, un quarto d'onda o mezz'onda non ha cambiato molto. Comunque è bellina, cioè per quello che costa si può prendere come antenna secondaria, capito? Ma non è l'M? No, no, Venom mezz'onda. Quella che volevi vedere. Diciamo che è marcata eco antenne, ma è un adesivo che mettono loro per, non so se abbiano rubato il marchio oppure l'abbiano comprato, lo stiano usando per far vedere che è roba italiana, no? Roba buona, invece è fatta in Cina quella roba. E a pompa, non ti preoccupare, mi ha abbassato un po' i watt perché qua c'è un cibo modulato. Ma è sempre alto le stazionarie, non ho un cazzo di va. Tu come abbassi abbassi. Cazzo di altro. Ora. Tu come abbassi abbassi questa cosa sta andando male. Ma molto alte, a quanto? A due? A due, quanto ce l'hai? A due? A uno, adesso, come ho ondulato l'antenna, 1,5. Solo, sì, e crevo chissà che cosa, caspita, tanto crevo 2, 2,5, sembrava più tragica la cosa. E vabbè, non possono così, sono ballerine. A proposito, con la Venom piazzata dal Profeta, senza tarare nu, cioè così come diceva la fabbrica, stretta le fascette, tutto 1 e 1, non si muove nemmeno, 1 e 1, 40 sotto, 1 e 1 sull'80, tutto 1 e 1, non a stazionare, è un carico fittizio della sì. Fruttitini pompa voci, Sant'Enna. Ma sai perché abbiamo fatto questa prova? La mezz'onda la volevo come antenna per usi futuri o d'emergenza per cose temporanee eccetera. E il profeta sta decidendo se prendersi la 5 ottavi oppure no. Quindi già che c'avevo la mezz'ora ho detto provati questa, la 5 ottavi magari qualcosina guadagna, ma non assai me. Sai perché? La 5 ottavi è lunga 5,20, c'è scritto 5,30 sul manuale, sul sito, ma non è pieno, sono 5,320. E la 5 ottavi è lunga 5,80, c'è una 5 ottavi mozzicone e una 5 ottavi caricata. Caricata, capito? 5,80 e quindi se dicono così sarà appena appena. 5,80 proprio se la lunghi tutta mi, andando al limite dei tubi, dell'innesto dei tubi. La bobina fa ridere, ti dico, la bobina non fa ridere, te lo dico a parole mie, fa cagare, però finché funziona il prezzo è basso, è così. Anto, mi sta chiamando mamma, ti devo lasciare, dai, devo fare cose per mamma. Ciao Anto, ciao, buona serata. Che ci fate a quest'ora qua? Parlando del più, dal meno, il per del diviso. Ciao Franco, la mia missione, noti qualcosa di strano? Rumori di fondo, guarda un po'. Non lo so adesso stai parlando. Non mi sente. Furri che ti soprammudula, ti schiaccia proprio e a te. Comunque ciao, ben ascoltato. Ciao Antonio, dopo tanto. Cappa, ciao Fra. La stazione aria alte, mamma mia cazzo. Oioioi. Ehi, salutami Franco che non mi sente. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, ci sentiamo, dai. Niente, c'è uno che ti schiaccia proprio, invece Antonio è un po' più alto, perché tu mi arrivi 6, Antonio è 7 modulati a 8. Anche a me schiaccia questo qua. Carillo. Ciao Fra, a te ti supera però un po', questo qua. Gaffa, ciao. Io ho 2 watt e mezzo, miseri, miseri. E allora, hai detto tutto, dai, se 2 watt e mezzo non ti sente, per via della propagazione. Ciao Antonio, anche a te. Dai, io sono in stand-by che sto facendo roba al telefono. Ciao Lu. Cappa, ciao Lu. Marco, ma te ne stai andando? Per questa antenna che mi vendisci di capuccia gira. Cazzo di auro, boh. Adesso a rompermi i coglioni pure lemi. Cazzo, abbastanza annaggio, guai. Vabbè, un accordatore non ce l'hai? Negativo. Vedi, un accordatore ci vorrebbe per queste cose, per prevenirsi. Purtroppo è così, anche a me adesso sta andando bene, sta andando. L'altra sera stavo modulando in bande, cioè in banda, SSB, in 555, avevo a frazionare sino a 3. Adesso la devo cambiare, la devo, perché mangiarla per le balle. Devo mettere un'antenna più seria. Mettere una seria proprio. Metti tanto me. Vai alla fine spendi oggi, spendi domani, perché le antenne, quelle antenne lì sono antenne, sì, sono buone, però stai sempre comprando antenne. Ne compri una, è buona. Infatti. Adesso la cambio e basta. C'ho la piccola, ma non mi senti con la piccola. C'ho la storm, c'ho pure, sul tetto, ma non mi senti, se l'attacco non mi senti, sicuramente qua non mi senti. Ma quale? Quella che muovono tutti i giorni? No, Roggio di Coburo va di un'altra gabbiciuria, che non ha frazionaria, però sicuramente non mi senti. Prova a vedere. Proviamo, aspetta che la cerco. È probabile che ti ascolto, probabile, ma se non ti ascolto poi vuol dire che quella lì non è fatta per questa zona. Hola, mi senti? Sì, però sei molto più basso. Ma io a te non ti sento, Non mi ascolti a me? Allora io ti ascolto con un segnale di 5 e una radio di 2 o 3. Un bel casino fate. Questa è migliore, vedi, questa è modulata, arrivi 8 modulati, è molto più. Ma sai cos'è? Magari dovresti arrivare meglio ma purtroppo c'è un casino di propagazione. Ciao, vabbè Luca. E Luca dice che si allontanava perché doveva fare cosa. Ciao. Oh, Iulia, che aspetta, infatti adesso ti ho sentito, non c'è Zavusini, adesso c'è la legge per la cura, ti ho sentito, aiuto, che aspetta, poi ti sentivo che modulavi con altra gente, però non, qua non arrivavi niente. Ma c'è trattato di Battigliucci, guarda che ti sente. Ehi, capo. Ma non lo devi usare tu. Ciao. Ma dove è venuto? Dalla macchina oppure da qualche altro posto? Allora ti spiego, io adesso sono a casa, in deposito, cioè in deposito, ma io ti sento lì, però non riesco a comunicare perché esco con poca potenza, perché quel cazzo di computer si impalla, capito? Ah, quando attacchi qualcosa si impalla al computer, quello è un casino, succede. A breve la cambio e via, ci metto un assilio, come antenna, guarda che pompa. Cappa. Se metti un'antenna come si deve, già un grido di pompa, e non c'è bisogno neanche di potenza. Cappa. Oh, Iulia. Voi solo ce l'avete qua. A quanto pare. Cappa. Io sentivo questi da fuori, cari, mi arrivavano 9, 9, 5. Cappa, cappa. Intese pure io, che mi arrivano in voce. Adesso sono calmati, si sono. E ora sì. Ma com'è che va a arrivare sosso, va? Almeno qua arrivi. Qua la casa tua sei sempre arrivato bene. Cappa, è un po' birichino, però. Adesso già che antenna ti racconto dalla gabbicciuria e ne metto un'altra. Io magari vuole revisionata un po' me. Ah, la tieni come seconda antenna, la tieni, la revisioni un pochettino, la controlli bene e la tieni come una seconda antenna. Lo so. Allora, magari se gli fai una manutenzione come si deve, ritorna buona, eh. Poi sa, meglio metterà in deposito. Perché da il deposito la quanti di. Il deposito me la accusa una base, me la butto in garage. Capo. Mira, revisionando, non la metti lì, magari arrivi bene anche qua poi. Capo, ma ne ho un'altra di Ringo, non ne comprerò mai più Ringo, boh, finito. Cazzo, io devo stare sempre già in antenna. Guarda, tanti anni fa io l'avevo comprata, la prima antenna, la prima era una Mantova 1, era, che avevo comprato nuova. Poi ho avuto problemi con quella lì e mi ho comprato una Ringo. Adiovato Biafendera, ce l'avevo 3 settimane, Maggio Varada e Maggio Biliardo la Mantova 5. Maggio Biliardo. E Ghida, poi non la metto in fiscita, mi pare la gioca garada, boh. Allora andava nulla. Poi non andava niente, a parte che non era neanche 5 ottavi. Già lo so, no, queste già funzionano, però qualche problemino strutturale ce l'hanno. Infatti io adesso quando ho ricominciato con un'antenna, una Mantova 5 di quelle vecchie che c'avevo, ho cominciato, poi l'ho tolta dopo qualche mese, l'ho tolta e mi ho comprato la Mantova Turbo. E da allora c'ho sempre la Mantova Turbo. Mantova 5 è meglio però. Ma non ne fanno più. E quella Mantova 5 che avevo io, vecchia, era piena di stazionarie, era tutta marcia, non valeva la pena. Ero sempre con l'accordatore attaccato. Quella aveva subito danni sicuramente, negli anni. Però quella lì si era stata rimessa a posto, ma il momento si andava. Ma non ne valeva la pena di metterla a posto, era proprio andata. Stava camminando per miracolo, ma aveva stazionario un bel. io avevo comprato un accordatore, gli ho agganciato l'accordatore e mi ho sceso le stazionarie sino a 1,2, 1,1 e misuravo così per un po'. Poi mi sono deciso, mi ho comprato la Mantova, la Turbo, me l'ho piazzata e la lora c'è sempre lì sopra e sto andando sempre bene. Adesso, sicuramente vediamo questo assilio che mi stanno proporrendo e la Jumbo. Capo. Vabbè, mettici una serie, seria. Non di quelle tre quarti d'onda, quelle. Che bella lunga, bene, una 5/8 seria, anche se la paghi un po', ma ti dà soddisfazioni poi. Lo so. Beh, io mi ritiro là, maggio sonno stasera, sono stanco. Ciao Fra, mi ha fatto piacere sentirti. Capo, recito. Aspetta, era tanto che non ti sentivo, anche se sapevo che stavi in ruota, ma però non ti sentivo. Va bene, dai, ciao a tu. Non è 144, buon tutto, ce ne ascoltiamo le prossime. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Capo, ciao.